Q10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in frequenza? Avanti? C'è qualcuno sul 10? C'è qualcuno sul 10? CQ, canale 10, c'è qualcuno? Sempre la stessa domanda, non c'è nessuno, Altani, non c'è nessuno, non insistere. Vabbè, non insisto. Ma non ci vedi, siamo tutti al mare, in costume da bagno, tentando di nuotare. Non lo senti lo sciacque, sciacque? E quello sì, tranne me tutti al mare. Qua, dovevo andare in un posto stamattina e non me la sono sentita. Buonanotte, Natalie. Se inizi così, cosa fai? La talpa? Sempre intanata. Esci fuori, mi dovresti uscire intorno a mezzogiorno, che c'è un po' di fresco, oppure anche adesso. Anzi, adesso io inizio già a essere tardi, scende il buio. Te ne scendi lì dove non c'è nessuno, tranquillo, a Platamona, alla rotonda, c'è tutta la spiaggia libera. E non penso proprio che sia libera, Ma te lo ricordi il film, com'era? Quel film che era, che c'era quel ristorante nella spiaggia, con coso, c'era grillini, poi, guarda, facciamo dire che tutti andavano anche a mangiare gratis, con la scusa che facevamo controlli, non te lo ricordi quel film? No, negativo. Non ricordo se entrava tutti al mare, parlava comunque di questo ristorante che era proprio semiabusivo di lì nella, in questa spiaggia di Ostia, e qua andava, dicevamo quello che voleva, una cosa assurda, e alla fine anche gli extracomunitari sono arrivati. E così, di tutti preoccupi di, che non te la senti, hai una lì, vai a prenderti un po' di sole, ti vogliamo vedere, non abbronzato di più. E già sto uscendo, non è che non sto uscendo, sono andato a piedi al bar, che con un amico lì, eravamo al bar fino alle 11, poi me ne sono rientrato, che dovevo cucinare. Natalina, tu devi andare, guarda, per non esagerare, no? Perché insomma poi ti fa male. Devi andare lì dalle 8 e tornare a casa alle 9, 9 e mezza di sera. Vedi che come dici, non devi, poi incontrare qualcuno e dice, ma lei è stata al mare, sono rosso. Sono già nero di mio, non è che mi abbronzo più di tanto, no? Caspittina. Poi se ti fermo a un posto di blocco, ti chiedo anche il permesso di soggiorno. Niente. Ehi, non lo dire scherzando, no? Magari mi prendono per un extracomunitario, mi prendono. Infatti ieri, quando era? Ieri credo, ieri però era un orario strano, forse intorno a quest'ora, hanno dato un film in cui c'è Riccardo Scamarcio, che praticamente è un extracomunitario, anche se bianco eccetera, però viene da una zona particolare, non è di colore neanche. Praticamente approda in questa specie di ristorante in Grecia, no? Cioè non è un ristorante, è uno di quei punti tipo di vacanza dove ci sono i bungalow, tutta quella cosa lì, e si mette addosso questa giacca del ristorante, lo chiamano tutti a destra e a sinistra a servire, mangiare tutto gratis, e fuori gli elicotteri cercandolo, si combina di tutti i colori. Guarda, mentre noi stiamo parlando, in questo momento ti posso assicurare che in mare ci sono tanti di questi cavoli barchini che stanno facendo questo azzardo, perché poi non è detto che il mare calmo ti salvi la pelle, dato che sono talmente in tanti, è talmente messi male queste barche, queste cose, che basta o niente che si trovano al largo. Lo sai, mare, contratto di mare tra la Sardegna e quei paesi lì, non è tanto da prendere alla leggera, no? Se c'è una barca tranquilla sì, va bene, ma con dei mezzi simili, sai quando parti ma non sai se arrivi. E poi al mare bisogna arrivare lì. Infatti anche ieri c'è stato un avvistamento, poi non so se li hanno presi, perché ininterrottamente nel sud Sardegna ci sono sempre elicotteri, anche se la gente lo ignora, cioè ci sono sia elicotteri sia mezzi navali non stop, sempre lì giorno e notte girando a caccia. Dal cielo e da terra e dal mare ininterrottamente. E lo so, però dovrebbero, invece di farli venire, scoraggiarli. Avrei piazzato in quegli elicotteri una Gatling e gli avrei sparato davanti al gommone o alla barca, li vuoi vedere fuggendo. Natali, non funziona così. Non sono delinquenti, sono semplicemente disperati, scelgono tra la... se fanno quelle cose, perché non è che arrivano lì tranquilli in autobus nelle coste e poi li mettono su un barchino. Arrivano di lì a toccare la notte con gente che le spara nel deserto. Sapete cosa c'è nel deserto di cadaveri? Ce ne sono altrettanti di quanto ce ne possono essere nel Mediterraneo. Non è così, non si risolvono così i problemi, purtroppo. Troppo semplice. E passerebbero comunque. Gente che dice così, è morti a un certo punto, sai, non sono così facili da fermare. E comunque non è quella la politica da adottare. Bisognerebbe cercare di fare di tutto perché i loro paesi non permettono questa cosa, ecco. Perché scappano, quasi sempre sono dittature o cose allucinanti, perché poi bisogna vedere cosa c'è in questi paesi, c'è semplicemente la morte, quindi per morte te la rischi, capito? Ma io avrei messo le navi a bloccarli fuori dalle acque internazionali prima di arrivare anche in Italia, nei robot, in Chivi, qua non passa nessuno. E cavolo, l'Italia ci abbandona, cioè l'Europa, ce li dobbiamo tenere noi, ma io, i francesi se li rimandano indietro, quelli che riescono a passare a 20 miglia. Però lì sono a terra, in mare queste cose non si possono fare, lo dovresti sapere. E fare il blocco navale, come dice Ocidriglia, non è così semplice come è messa lì. Ci sono delle norme internazionali da rispettare, che l'Italia ha scritto. Ti metteresti fuori praticamente dal contesto internazionale facendo una cosa del genere, capito? Perché insomma sono cose complicate, non è così facile, si metti lì, le spari, e tardi si fanno affondare. Poi cosa fai come nazisti? Sono cose complesse nate lì, sono problemi che è difficile da risolvere. Sì, io già li avrei risolti, non ti preoccupare. In acqua internazionale, non terra di nessuno, puoi fare quello che vuoi. E così a dirla a livello di chiacchierata di bar, capito? Poi fa finire sulla coscienza se sono donne e bambini. Problemi grandi, Natali, non sono da risolvere così alla faccioneria come pensa qualcuno che ci ha provato e ne sono arrivati anche di più di prima. Ma comunque lasciamo perdere, sono cose che complicate, ecco, sono grossi problemi a livello mondiale, non siamo solo noi poi. Hai visto cosa è successo in Spagna, eccetera. È successo di tutto di più e non hanno risolto niente poi alla fine. Io ho visto che quando c'era Salvini ne arrivavano di meno di queste cose. Ma fagli entrare nessuno. E non devi far entrare nessuno. Un attimo il telefono. Stavo forse la sveglia. Era mia moglie, era che è dall'amica qui vicino. Io pensavo che stesse suonando la sveglia, quel suono così, come dire, antico, dai. E l'ho fatto apposta in modo che si senta, ci sono certe suonerie che non si sentono neanche, mia moglie c'ha la canzoncina, mai io, e poi non lo sente mai, la devo avvertire io che sta squillando il telefono. Capita. Ma Giulio è assente? Per il momento sì, è entrato stamattina, mi stava chiamando, tanto lo so che ci sei in ascolto. E ha chiamato proprio espressamente a me, capito? Poi ho chiuso perché lui doveva andare a mangiare, io avevo già mangiato quando mi ha chiamato. Figurati. Magari c'è la partita, o c'è stata qualche partita, non so, ancora per una settimana credono che ci siano queste cose qua. Io qua mi guardo solo quando c'è l'Italia e basta. Altre partite non ne guardo, di nessun tipo. Io non ho visto neanche quella dell'Italia, figurati. So che hanno vinto. Alla faccia di quell'altro, era una partita anche politica, se la gente non se ne è accorta, perché ci sarà stato quello che si è mangiato il fegato, no? Erdogan, perché quando aveva vinto la partita precedente un altro po' di fa eroi nazionali, e quindi questa era importantissima per lui, perché l'Italia, Draghi lo ha chiamato dittatore, cosa vera, d'altronde sono tutti un dittatore, e ha fatto un attacco all'Italia micidiale, e quindi senza volerlo è diventata quasi una cosa politica questa qua, tanto è vero che i stessi sono anche congratulati, no? Soprattutto quella dell'Europa che non l'ha fatta neanche sedere, proprio cose allucinanti, guarda, per carità. E non ti ricarichi questa gente ad avere più potere, cosa combina? I nuovi nazisti sono. Ma io non è che sono nazista, io non voglio male a nessuno. E per non farli soffrire è qua che non li avrei fatti entrare. Tanto soffrono di là, qua lavorano se ne. Cosa cavolo vengono a fare qua? A soffrire la fame, questa gente. Perché noi non ce li possiamo tenere, non ce lo possiamo neanche permettere, è un macello. Invece di pigliarseli, i tedeschi addirittura li drogavano e li picchiavano. E te li mandavano indietro con gli aerei, non ho già compreso. Sì, io sto parlando di altro comunque, Natalia, non sto parlando di Erdogan, che è il presidente turco, che non c'entra niente, cioè, o meglio, c'entra anche lui in quel discorso dell'immigrazione alla grande, però non in questo caso, che era un altro discorso, no? O sai, lui vuole fare come qualche altro c'è stato nella storia della grande Turchia, la potenza, tric e trac, e invece se faranno abbassare la cresta. E a quello lì l'hanno pagato, non so quanti miliardi gli hanno dato. Sì, hanno pagato a lui, hanno pagato i libici, e poi si scandalizzano quando le sparano. Ma è ovvio, i libici lo sappiamo come agiscono, no? Non è che si può nascondere dietro un dito, la gente violenta, non c'è stato, c'è tutta una situazione lì da far paura, se continuano così ci arriveranno anche loro, che scappano da loro stessi, quindi figurati. Però non sono problemi facili, Natali, farla come la vorrebbe fare Salvini, che poi non è che sia proprio vero che sono diminuiti gli sbarchi, bisogna guardare un po' i veri numeri, non andavano a destra, andavano a sinistra, anche perché c'è tanta gente su questi poveri disgraziati che ci mangia, ma ci mangia di brutto. Guarda, allo stato attuale abbiamo ottenuto che praticamente siamo d'accordo che non tutti ci possono stare, perché sennò succede un disastro. Su questo siamo d'accordo, però il molte cose sappiamo tutti che gli italiani non le fanno, e quindi guardati il coso dei pomodori, praticamente allo stato attuale, se non lo fa questa gente non lo farebbe nessuno, ci sarebbe una crisi dell'agricoltura pazzesca. Quindi è così, d'altronde è successo anche agli italiani, no? Quando andavano fuori succedevano queste cose, se non c'erano gli italiani sì, ci insultavano, facevano tutte quelle cose, però poi alla fine si sono accorti che la produzione la facevamo noi. Tutto lì, e sono cose nate, ho detto, complicate, non è così a dire la chiacchierata a bar, sono complicate, ci vuole gente molto, molto saggia, molto in gamba per trattarle, e non sono problemi facili purtroppo da risolvere. Lo so, a livello politico si devono muovere, speriamo che riescano a fare qualcosa. Questi libici li hanno pagati e poi sparano e sequestrano le imbarcazioni dei nostri pescatori, ma io che li avevo invasi, ero andato con un po' di aerei e avevo bombardato. E vi avevo da Dio, avevo preso i pescatori e le barche. L'avrei tornato in base e sarebbe tornata attorno a nostra, la Libia, e il petrolio sarebbe stato nostro. Non è che funzioni così, Natale, funziona così. Tra l'altro, vedi, adesso, per ragionare anche, non sapresti neanche chi sparare, perché c'è un casino talmente grande da quelle parti che non si sa neanche più chi comanda, quindi con chi te rabbigli? Con quello no, con l'altro è un poveraccio, con l'altro è un disgraziato, l'altro subisce cose allucinanti. Non c'è stato, capito? È un'anarchia totale. Il più forte comanda, quindi a chi spari? All'aria, come fanno loro. Boh. Io gli avrei invasi, da oggi comando io qua. Tutti i prigionieri, via, pure le scatole. Che mi sequestri le navi dei pescatori, ma io ero andato in Chivi e ne avevano fatto la valigia a vino. Nel frattempo che stai parlando, c'era anche uno che diceva un'altra parte. E Natale, purtroppo sono cose grandi, non, forse è così facile risolvere questi problemi, ma non lo è. poveri, e tra l'altro ce ne sono tanti anche più gravi, perché oramai si è preso coscienza, o perlomeno si fa finta di prendere coscienza che la situazione del pianeta è quello che è, tante cose neanche le dicono, perché insomma è proprio un grosso casino nata lì, un grosso casino. Noi siamo fortunati e bene o male siamo arrivati dove siamo arrivati. Adesso vediamo come se la sbucciano e se riescono a sbucciarsela, ma la situazione è seria, cioè ce ne accorgiamo tutti col clima, con vari problemi di tutti i generi e di tipi, che per anni e anni se ne sono fregati, hanno fatto finta di niente tutti quanti. E infatti, e non è quello. Troia, è un macello mondiale, altro che. Siamo incasinati forse, tutti però. Tu stavi dicendo alla tedesca che non l'ha fatta sedere neanche, alla von der Leyen. Ogni sgarbo. Sì, ma è una cosa... Sono quelle cose proprio da fatentone veramente. Un altro che pensa di risolvere i problemi con la voce, mischiandosi in cose anche che non lo riguardano. Meno male non è entrato in Europa questo, ci mancava proprio lui. Già ci sono gli amici di quel signore che hai nominato prima, che sono proprio dalla parte, le manca solo la divisa con la croce uncinata a quelli, per carità. Pure a noi, che siamo nati poveri. Ma in realtà non è il problema di essere poveri o ricchi, il problema, ci dimentichiamo sempre una cosa, di poter fare una vita serena, e perché no, anche con un piccolo pizzico di felicità, no? Perché all'uomo manca, può avere tutti i soldi. Ah, per carità, aspetta. Ma che è successo? C'è un po' di agitazione, cioè dall'altra parte del mare, diciamo così. Natalito per tutto. Sono qua. Ho pensato che te trova qua, che stavo entrando qua al balcone. Giulio, esci fuori, dai, non stare attaccato lì a questa televisione, che qua siamo soli. Cata, mi ho comprato una mazzetta nuova, mi sembrava la casa di Giulio e gliela rompo per la televisione. Ma ne ha tante, mie. Devi rompere più di una. Tutte gliele rompo, lui è affezionato a quella grande, per vedersi le partite. Se tu gli rompi quella, già entra per quella. Guarda, fa una cosa elegante, al posto di entrare in casa, che magari ti spara, vai dove c'è l'antenna, gliela stacchi, ci colleghi un generatore di alta tensione, e così dall'antenna entra qualche kilowatt, e brucia tutte le tv in colpo solo, anche se sono spente. Io non credo, te li mandi. E poi dici, è stato un fulmine al ciel sereno. Altro che fulmine. Adesso funziona. La farina, a quest'età non fa proprio piacere uscire, sono le 6 subito, c'è un caldo fuori così di colpo micidiale, se non sei in acqua non fa proprio piacere. E infatti io non sono uscito, guarda, c'era una gara al campo, me la volevo vedere, eh? Beh, non me la sono sentita di andarci. Ma poi sarebbe comodo vedere il mare via, semplicemente sono andato alle camere di alta zona a vedere quanta gente c'era. C'era essere un casino micidiale. Ci sarà un assembramento pazzesco. Secondo, se non stanno attenti, ne prendiamo un'altra consulata. Zitti zitti, sotto sotto, piano piano. Guarda, gli inglesi che sono molto pragmatici, non si fanno più fregare, sono stati fregati all'inizio, però adesso ci stanno andando con i piedi di piombo, perché sennò già lo sanno che loro soldi non ne hanno, ci hanno solo dei debiti per adesso, grazie alla felice idea di uscirsene dall'Europa. Quindi sono abbastanza spaventati lì. Sì, io guarda, penso che hanno voluto aprire tutto, se non prendono le precauzioni, hai ragione tu, mi bigliamo una vedda cuzzurata di questa disgrazia che ci è capitata tra capo e collo, perché questa è una disgrazia, guarda. Sono sempre quelle cose che le sottovaluti, capito? E poi capitano quelle cose lì. Non penso che sia la fine, perlomeno dei problemi, non penso che sia la fine. Ce ne saranno tanti altri problemi, uno peggio dell'altro. Oi, Natalie, che eredità che stiamo lasciando, non certo bella. Non è bella, no. L'unica cosa è, anche se hanno aperto tutto, stare molto attenti, perché questo virus è cattivo. No, il problema è che sta mutando velocemente, pare che si stia adeguando un po' a tutto, speriamo che almeno i vaccini lo tengano a bada. Poi anche sui vaccini hanno fatto un casino e qua non ne bastano, cioè fallo fare a chi è a rischio, non ai giovani che sono accorti adesso che quel cacchio di vaccino sta dando dei problemi. Sono sempre piccoli in proporzioni al numero, però sai, la gente c'è anche paura, giustamente. E infatti lui dico che adesso questa ragazza, quella che è morta, dice che aveva problemi al sangue, alla circolazione con le piastrine, e gli è venuta la trombosi per quello, non per il vaccino. Sì, ma anche lei non ho capito, ma ne piglia dalla leggera, cioè, quando ti chiedono se c'è qualcosa, lo devi anche scrivere. Non l'ha scritta, nessuno ha guardato, o chissà cosa è successo, perché quella già è una cosa strana, comunque, che si dovrebbe andare a fondo, perché adesso è tutto incasinato. Comunque, vabbè, abbiamo capito che quel vaccino lì è un vaccino nato male, è cresciuto peggio, quindi è così, anche quello è capitato. E l'unica cosa è a non darlo alle ragazze e alle donne che prendono la pillola, anche quello c'è, perché anche quello può fare succedere qualche brutta cosa. Devono stare attenti a quello. Insomma, da spiegare come mai questa ragazza non si sia accorta, non abbia detto guardate ci sono questi problemi, un po' strana la cosa, comunque un macello da anche lì. Oi. Già non ne mancano mai, sempre da una cosa all'altra. E lei lo sapeva che aveva questa malattia, da 2 mesi prima mi sembra che lo sapeva, ma ti pare che è cosa da prendere alla leggera questa cosa qui? Se lei avesse scritto che soffriva di questa malattia qui, quel vaccino non gliel'avrebbero dato. Beh, assolutamente no, caspita, una cosa, è proprio una contraddizione. indicazione assoluta quella, come a volte sono quelle cose che prendono un pochettino alla leggera, capito? E non capendo che anche questo vaccino, per quanto abbia fatto dei miracoli, però è pur sempre una cosa sperimentale di cui nessuno sa poco, perché ovviamente è stato fatto tutto in fretta, in emergenza, e quindi qualche controindicazione c'è sempre in questi casi. E la gente dimentica il dettaglio che ci mettono sempre, che il nome che gli hanno dato, le autorizzazioni, sono tutte autorizzazioni in stato emergenziale, il che vuol dire che c'è solo quello per bloccarla, altre cose non ce n'è. E quindi è così. La gente, sai come te, per queste cose pensa che tutto deve andare per forza bene, però a volte bene non va. Lo so, io ho scritto tutto, vedi che non me l'hanno dato la AstraZeneca, perché vuol dire che non me lo potevano dare quello lì, me l'hanno dato un altro. Bisogna scrivere la verità di tutto. E così ti fanno il vaccino che più si adatta a te e corri meno rischi, che poteva venire anche a me. Però mi hanno dato il Pfizer a me e ho scritto tutto quello che avevo, perché è giusto che uno debba dichiarare la verità di quello che ha. Infatti, purtroppo così. È tutto un problema, sempre tutto un problema, non si ne esce più, non se ne esce più. Natali, già ce lo potevamo immaginare quando eravamo appena 10 anni fa, che ci avremmo noi contenti, o noi siamo stati già la seconda generazione che non conosce la guerra, la guerra guerreggiata, dico, il che non è capitato né ai nostri padri né ai nostri nonni e neanche ai padri dei nostri nonni. Cioè la guerra c'era sempre, noi ci abbiamo avuto questo lungo periodo di pace fortunatamente, e poi siamo rimasti spiazzati su queste cose. Sì, infatti io l'ho sempre detto, questa non ci ha ammazzato la guerra, ma questo virus è un macello. Ci sono queste variazioni, speriamo che questi vaccini riescano a bloccarle, se no non ne usciamo più. Sì, ma anche lì se non si danno la mossa dalle parti lì dell'India, del Pakistan, stanno morendo come mosche, uno dice vabbè che sono, hanno un credito di qualche miliardo di persone in più questa gente, però cavolo, poi è quasi impossibile bloccarli queste varianti. Se iniziamo a parlare di questi numeri, hai visto le scene, non so se hai avuto occasione di vedere quello che sta succedendo tramite i filmati del reporter, eccetera, è proprio la sconfitta dell'umanità, sempre gente in strada morendo con attaccata a una fibrosi provvisoria in mezzo alla sporcizia. Ma come fai? Cioè è veramente difficile uscirtene da quella situazione. È una situazione molto brutta, già eravamo messi male noi per i tagli che avevano fatto alla sanità, figurati questi paesi qua, mamma mia, non ci voglio manco pensare tutto quello che sta succedendo. Sì, di tutto di più, guarda. Oi, Natalino, noi pensiamo ai ristoranti chiusi, capito? Che per carità, hanno tutto il diritto di aprire, di guadagnare, eccetera, però ci sono paesi in cui veramente è un inferno vivere, è un inferno. E di lì poi c'è anche il coso delle caste, quindi il ricco se la cava sempre, capito? c'è una politica di ingiustizia sociale che noi neanche ce lo immaginiamo. E infatti, perché ci sono molte differenze, ci sono le caste lì. E la volta che, a proposito di casta, di gente ricca, Pistolai, Briatore, dicevo, e questo, quest'altro, e da qui a pizzicata è duro un virus, ma solo perché Enrico chissà che cura gli hanno fatto per rimetterlo in piedi subito, sia a lui che a Berlusconi. Sì, Berlusconi già è messo male, ma quello è messo male per l'età e per le patologie, quindi non so fin quanto dura. Purtroppo. Hai visto quel calciatore invece, quello là, che si è preso quella, cioè che è andato in arresto? È un infarto avuto, dice, quello ha finito di giocare. Sì, non era esattamente un infarto, è qualcosa di un po' peggio. Quello lì era morto, se non c'era qualcuno che lo rianimava era bello che è morto. In gergo si chiama fibrillazione ventricolare, che è micidiale, è una malattia che prende soprattutto gli sportivi e non perdona, soprattutto gli sportivi giovani tra l'altro, perché crea praticamente il cuore inizia a battere talmente forte che non si ferma, se non si ferma per un miracolo, perché si ferma la rasura. Battendo così forte praticamente questo cuore non pompa niente, no? Va vuoto, in parole povere. Se non c'è un defibrillatore a portata di tiro, guai. Per quello che lo stanno mettendo nelle scuole, negli aeroporti, eccetera, perché questa cosa sta iniziando ad essere, benché sia una cosa rara, però che ogni tanto ne dice che c'è qualcuno e non è a prendere sotto gamba. Sono cose brutte. E infatti ce l'hanno anche in macchina i vigili urbani, ce l'hanno, avranno fatto il corso come l'ho fatto io per poterlo usare, no? Però quello lì già è semplice, non è come quello dell'ospedale, quello è automatico. Sì, fa tutto da solo. Nei posti si carica, ti dice allontanarti e poi entra in azione, ti dice dove posizionare i cosi e poi ti dà un bel colpo di sì, proprio di quelli micidiali. Se non c'è bisogno di darla, la scarica non la dà, quello automatico controlla prima se la può dare la scarica, capito? C'è anche una memoria dentro, sentono tutto quello che tu dici in ambulanza, figurati, con quel defibrillatore, tutto, cavolo, ti fa, quello lì se non la devi dare la scarica, non la dà. E beh, quello dell'ospedale invece è l'occhio, se non c'è personale specializzato è un macello. Cosa ti volevo dire? Sì, sono completamente, sono intelligenti, diciamo così, dai, quelli portatili, ormai ci sono dappertutto, anche negli aeroporti, nei cose, proprio perché è una cosa da utilizzare per grave emergenza. E nei campi sportivi, da tutte le parti ci sono, e ci deve essere anche la persona che lo deve usare, figurati, è obbligatorio averlo, ed è giusto che sia così, a chi mi sommucchi un bel. Perché nonostante si facciano tanti controlli, quelle sono delle patologie che si sanno ben nascondere, malerete. Infatti quasi tutte le persone che fanno sport di norma hanno questo cuore ingrossato, soprattutto i ciclisti, e non so se avevi visto anche quel ciclista, era successo lo stesso, poi non so se l'avevamo salvato. Mentre quel calciatore francese, che era anche lui capitato la stessa cosa, un giovane, promettente, eccetera, no, di lì non c'era stato niente da fare. Nonostante tutto, perché non è detto che ci riesca anche il defibrillatore, se quella è insistente è un macello. Io lo so, la fibrillazione ventricolare è un macello. Io stesso ho il cuore ingrossato, quando mi facevano la visita a me sempre me lo trovavo, ma io è perché avevo fatto un sacco di sport, è per quello. E cosa sta succedendo? La preparazione si sta aprendo. Natali, chiude la finestra, così. E così di colpo, tra una cosa all'altra è salita in maniera esponenziale sta cosa. E poco fa ho collegato uno da... ho fatto una chiamata a vedere se mi sentiva qualcuno, no? In inglese. Nel canale di chiamata internazionale, mi ha risposto questo di Trieste, Duino, di russo arrivava qua, e io lo stesso, arrivavo bene. Ma con la preparazione, se nella zona, eccetera, da fare grandi cose, sono tutti fenomeni dovuti all'attività solare, quindi ci stanno come cose. Tutti li vedi attaccando lineari, io non ne ho, io infatti tutti quelli che ho collegato, tutti senza niente, con i batteri dell'apparecchio. Ma se io ho provato, guarda, ho fatto un esperimento, perché questo apparecchio da in AM da 2 watt, ok, diciamo 2 di Napoli sotto, facendo questo, ho provato a chiamare, e subito avanti, e mi sentiamo bene comunque, e c'è qualcuno che chiama, io è Natali, che noia. Quando ho chiamato, ho visto che stavano parlando, no, che stavano chiamando, e ho fatto una chiamatina io, e mi risponde in italiano. Sì, perché come sale? Come sale? Dopo la gente si meraviglia, cioè dopo tanti anni, di 27, la gente si meraviglia ancora che succedono queste cose, ma sono tutte cose notte, no? Io mi ricordo quando ero in macchina salendo dal mare, di lì dove ci sono le curve, che è una zona di il massimo della zona disgraziata, di lì alla più della Landrica, non ci sono quelle curve dove passa quel rio per andare al Ghero nella strada vecchia. Me lo ricordo, mi ha risposto uno da Continente, io tra l'altro c'era un antennino in macchina, una cosa giocattolo, ho fatto la chiamata, mi ha risposto che sta arrivando al fondo scala, ma questo ce l'ho dietro, invece fu mandato a QSL ed era proprio da dove diceva, caspita. Ah no, e io lo stesso in macchina, ho collegato l'Inghilterra da via Marghinutti, lì ero fermo in macchina e questo mi ha risposto ed era veramente in Inghilterra. Sì, perché così. Questi che sentiamo sono parte in banda laterale, parte sono in FM, ma sotto non i canali sotto si sentono anche gli ospedali tedeschi, no? Che hanno i cercapersone, il 27, sentono tanti, quando senti quei rumori ti sono i teledin, una specie di teledin, e c'è anche il coso lì, il policlinico, quello di Via d'Italia, c'hanno una gran plin che è staccata, e lo usavano per quel motivo. tiro lì. Per il coso, per il cercapersone, dimmi tu. Sì, era una vecchia, c'è ancora una, sono una notolta, c'è ancora una vecchia Grand Plain, era per, proprio per quell'uso, no, per cercapersone. E magari per chiamare i medici, capito? No, però nei canali sotto di norma. Ma oggi non entra nessuno. È entrato Marco quando stavo parlando con Giulio, però manco lui si sente. Se non è che a Platamona pure lui. Sì, no, entra sempre, Marco è sempre in giro. Io gli ho detto se voleva venire stamattina, infatti io perché ero solo pure non ci sono andato, se no se veniva Marco saremmo usciti con la macchina mia al limite, perché lui è mandrone. E anche speriamo, no, scappato. Anche mandrà a guidare. E lui, a lui cerchiamo. Insomma, no, proprio non si fa mancare niente. Sì, Marcolino è una scena. Chissà come va a finire questa gente. Poi al dunque che dovrò andare in pensione, chissà come sarà a casa, ma non ci posso pensare. È difficile andarci con la pensione, figurati senza pensione. Sì, infatti. Senza contributi è una scena. Una volta l'avevano assunto dove lavorava Gianni. Beh, una di me va rivedurato, come ha visto come lavoravano quelli come forsennati, se ne fuggì. Se uno non è abituato, è chiaro che ci va poco in certi posti. Ma poi anche lì è questione di fortuna, sai. Questione di fortuna, c'è cioè chi va bene, c'è cioè chi va male, e usi un po' dappertutto, non è che sempre puoi fare il lavoro d'ufficio e poi il secondo lavoro d'ufficio che ti capita ne ci vuole il gabbo, non è che, anche che ogni lavoro ha le sue pro e i suoi contro. L'importante è però avercelo, quello è il punto, capito? Il problema è quando non ce l'hai. Infatti, non è quello. Io ho sempre lavorato da bambino piccolo, babbo non voleva che andavo a lavorare, voleva che studiassi. Invece a me mi piacevano i soldi e ho sbagliato. Quello. Lì, quando sei giovane, come si dice, se gabbi, come si dice, pensando, gabbi macco, chissi così. Giovani irami, e lo gabbo si fumava. Appunto, si fumava proprio. Poi però la gioventù se ne va, e iniziano il periodo in cui i soldi non te li dà più nessuno. Se non te ne lavori non ne hai praticamente, e di lì è un problema, scelte senza titoli non ti vuole nessuno, e quindi poi oramai, tornando anche al discorso di prima del stracomunitari, ma molti lavori che fanno questi sono lavori veramente da schiavi, che non farebbe neanche. Gli italiani ci stanno lontani 3 miglia, sono tutto, basta vedere quello che fanno con la spazzatura differenziata, quando lavorano di lì sono cose, è un ambiente terribile. Sì, lo so, ma se non trovi gente che vuol fare il panettiere o il pasticcere, perché sono lavori che tu i giorni di festa lavori, capito? Il panettiere fatichi troppo perché entri a mezzanotte a lavorare e loro non hanno voglia, io so voi i figli. E quelli sono lavori signori. Natali, invece avevo sentito un'intervista che erano disperati, hanno detto: cavolo, ma noi non troviamo nessuno qua, perché avevamo dei ragazzi, duravano due giorni e poi scappavano via, ma cioè era una panetteria di quelle grosse, cioè la panetteria, ma tu vai anche da Cesaraccio, alle 7 sono aperti, e quindi è plausibile che se questi alla vendita sono aperti dalle 7, è plausibile che sia gli artisti sia gli altri siano almeno lì dalle 5, anche dalle 4 del mattino, dalle 4 di mattina quelli che parlo devono fare. Poi molti hanno detto anche gli stipendi non erano male, solo che le hanno risposto: ma noi non incontriamo più gli amici, non andiamo più a divertirci, eccetera. Ma gli amici probabilmente c'hanno il papà ricco, quindi se non c'è altro da fare fai quello, insomma hanno anche lavori sicuri che sono scappati via. Così come molti del sud, mi ricordo, dovevano scappare via da Torino e da quelle zone perché non trovavano casa, erano talmente alti gli affitti che praticamente dopo che lavoravi, avevi l'affitto, non c'era più niente. E oltre a quello, c'era poi che se del sud non se ne affittavano pure, figurati. Mio figliuccio e mio fratello che entrano a mezzanotte a lavorare, però dopo si devono riposare quando tornano e non è che possono fare una vita di divertimento, no? In chi vi distra quando esci e ti riposi? C'è una preparazione, non si capisce niente, c'è lo squadra, c'è a 5 addirittura. Purtroppo è così in Italia. Ma anche la vigilanza notturna, eccetera, quelli prendono servizio alle 10, alle 11, e quindi quello è il lavoro, quello è niente. Chi era quello? Che film era? Pozzetto, forse, insomma, lo ricordo, faceva il vigile notturno, e la notte, cioè la notte di giorno, quando rientrava a casa abbassava tutto, chiudeva le finestre e si metteva un quadro con la luna. Dimmi tu. Già è vero, già. Che vuoi? Quando fai altro che... magari non fai niente, però ti stanca talmente tanto perché fai 12 ore. Quei vigili notturni fanno 12 ore anche se non le possono fare. No? Eppure fanno 12 ore. C'è mio nipote che è vigile notturno e fa di 12 ore a turno, se no non prendi un tubo di stipendio perché sono pagati poco. È così. È così. Così Natali. A molti non piace, a Napoli dicono a Gioia faticano, che vuol dire sto andando a lavorare, loro dicono a faticare. Infatti, devo andare a faticare, cavolo. E poi c'è l'altra cosa. Adesso per la stagione estiva non si sa come fare perché c'è gente che preferisce avere il reddito di cittadinanza che andare a lavorare, capito? E citò un coso in televisione, uno sputtanamento tremendo. Aspetta Natalia, un attimino, che devo controllare una cosa che è arrivata. Sta succedendo qualcosa, un attimino. Fai. Sì, Natali, stavo ascoltando una cosa, quindi volevo capire cosa si trattava. Mi ero spostato, già ho sentito. Sì, dove ti eri spostato? A fare un giro? No, volevo farmi un caffè, capito? Non ce l'hai la macchinetta? Sì che ce l'ho. dolce gusto. La pasta in black si chiama, è bellina, tutta digitale. Ci mette la capsula dentro e ne può fare anche due con una capsula. È bello, bella macchinetta. Ma come cosa è? Nescafè, dolce gusto, e quell'altra qual era? Ce ne sono tre, credo, di tipi. Questa è la razza e lo fa anche buono il caffè. Ma di quelle che fanno anche il vapore o di quelle proprio automatiche? Cioè automatiche, di quelle che ci metti la capsula, la buca e te ne esce il caffè. E quella lì non è a vapore, cappuccino non ne fa quella. Però una capsula ti fa due caffè, capito? Anche. O ne fai uno o due, oppure te lo fai lungo. Sono tre modalità che ha. No, io ho preferito quella manuale, dolce gusto, no? Senza capsule, però siccome le capsule, anche se ne usi una al giorno, due al giorno, ti dà fastidio, no? Poi avere questa, perché va messa nell'indifferenziata, credo, se non ricordo male, è un al secco. Quindi mi ho preso quella manuale che posso usare le capsule che si caricano, no? C'hanno qualcuna in plastica e qualcuna metallica. Ci metti il caffè che a te piace, lo compatti e poi le chiudi. Che è successo? Chi è che mi ha avvertito? Ho fatto un pisto, ogni tanto ce n'è una. Ieri mi è saltata la corrente addirittura in mezza stazione, è entrata in funzione il gruppo, non ho capito perché. Chi è? Ah no, è l'altro. Così è. E lo fa buono, io faccio anche il cappuccino comunque, c'ho anche il caffè, le capsule al latte, no? Metti quella e ti esce il coso. Io ho capito, ma no, questa cappuccino non ne fa, però fa un buon caffè. No, anche la mia esce cremoso. Ho capito perché mi sta avvisando che ce l'ho a battere scariche e si scaffare, ma dopo la matti. Ogni tanto una ce n'è nata lì. Ma lo sai, forse mi si è rotta una di quelle microcamere nuova, praticamente sono stato senza usarla perché era una 4K, ho pagato un sacco di soldi e non funziona più, non si accende, la batteria sembra buona, non solo a sfasciarsi quando li uso, ma si sfasciano anche quando non li usi le cose. Il canarino cantando, sentitela. Sì, l'ho sentito, questo è arrivato forte. Giulio, allora, a che punto sei? Tutto tace, sì. A parte questa preparazione, che a noi non ci facciamo niente. E così, belli, no, a me piacciono i collegamenti in diretta sono molto più quando c'è basso QRM tipo la notte, no? E quindi puoi parlare in diretta quando non c'è neanche un pizzico di preparazione, così sai proprio dove arrivi effettivamente. Ma non qua però. Nei tempi passati anche qua, la notte quando era tutto tranquillo, sentivi i paesi, là c'era anche, mi ricordo, i pescherici che uscivano, oramai non c'è più nessuno che ce l'ha, la 27, sulla barca c'è il VHF. E mi ricordo mio fratello ce l'aveva il VHF più la 27. Allora c'era anche l'antenna, avevamo messo anche la guardia costiera, te lo ricordi? Come? Che l'antenna per 27 l'aveva messo anche la guardia costiera, così poteva ascoltare quello che si diceva, no? Perché qualcuno faceva il nonfio andare a pescare dove non poteva. Adesso già non lo possono più fare, non è mai da da un po' d'anni.